specie aliene sono organismi, animali o vegetali introdotti in un ambiente diverso da quello originario a causa dell'intervento umano. Queste specie possono diventare invasive, minacciando la biodiversità locale e causando danni agli ecosistemi e alla salute umana. Sono identificate come un fattore chiave nel 54% delle estinzioni animali conosciute e possono generare anche danni economici. È importante gestire e monitorare queste specie per proteggere la biodiversità. Le specie aliene sono chiamate così perché vengono da paesi stranieri e possono anche essere dannosi per il nostro ecosistema, come per esempio il nutria, il gambero rosso della Louisiana, il pesce siluro, lo scoiattolo grigio, la tartaruga dalle orecchie rosse e il granchio blu. Lo scoiattolo grigio è stato introdotto in Italia, ma proviene dall'America perché è anche più grande e si procura più cibo. Poi c'è la tartaruga dalle orecchie rosse, che viene dagli Stati Uniti e che ruba il cibo alle nostre tartarughe paludine.